sono nauseato della mia vita. Darò libero sfogo ai miei lamenti parlando dell'amarezza del mio animo. Dirò a Dio: non condannarmi. Fammi sapere il motivo della lite contro di me. Ti giova forse essere violento e disprezzare l'opera delle tue mani, mentre favorisci i progetti dei malvagi? Hai tu occhi di carne, od osservi come fanno gli uomini? Sono forse i tuoi giorni come quelli di un mortale, ed i tuoi anni come quelli di un uomo, perché tu debba indagare la mia colpa ed esaminare il mio peccato, pur sapendo che non sono colpevole e che nessuno mi può liberare dalla tua mano? Le tue mani mi hanno formato e modellato integro tutto intorno. Ora vorresti distruggermi? Ricordati di grazia che mi hai fatto di argilla e mi fai ritornare in polvere. Non m'hai colato come latte e fatto coagulare come formaggio. Di pelle e di carne mi hai rivestito, di ossa e di nervi mi hai intessuto. Vita e benevolenza mi hai concesso, e la tua provvidenza ha custodito il mio spirito. Eppure nascondevi questo nel tuo cuore. Ora so che pensavi così. Se ho peccato, tu mi sorvegli e non mi lasci impunito per la mia colpa. Se sono colpevole, guai a me. Se sono innocente, non oso alzare il capo, sazio come sono di ignominia e colmo di miseria. Se alzo la fronte, mi dai la caccia come un leone, rinnovando le tue prodezze contro di me. Ripeti i tuoi assalti contro di me, aumentando contro di me la tua ira, lanciando truppe sempre fresche contro di me. Perché dunque mi hai fatto uscire dal seno materno? Fossi morto, senza che occhio mi avesse visto. Sarei come se non fossi mai esistito, condotto dal ventre alla tomba. Non sono poca cosa i giorni della mia esistenza. Lasciami allora, così che possa respirare un poco, prima che me ne vada per non tornare più nella regione di tenebre e di ombra, terra oscura come caligine, regione di tenebre e di disordine, dove il chiarore è simile alla notte buia.